Totem, tubi, bai. Oggetti quotidiani nell'ultimo bai. Mostra a cura di Roberta Cerini Bai e Alberto Rolla. Crema, 5 dicembre 2014, 7 gennaio 2015. Presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta Winifred Terni De Gregori, 5. Enrico Bai, la donna fiume. La donna è un fiume. Se si innamora, è un fiume in piena. Se straripa, fa danni ingenti. L'impeto della donna è pari a quello dei grandi fiumi. Argini. Gli argini qui sono fatti di pizzo, di fiocchi, galloni e cordoni, tra zuffoli e frange di fili intrecciati, ritorti, contorti, ghirogoranti e rabescanti, con andamenti sinusoidanti e curvilineanti. Tra gli argini vi è anche una falce con un marchio di fabbrica recante la scritta «Superacciaio 2 Ottomani». Due ottomani vi sono raffigurati con barba, turbante e diadema. Tuberie. Sono arterie, viadotti e sottopassi di sistemi circolatori, gastroenterico linfatico seminali, con relative trombe, tube, dotti spermatici, sifoni, serpentine a doppio e triplo gomito per l'andata e per ritorno degli esuberi colanti, con robinetti e chiuse, su fondali di fogliame boschivo, tra scoppini cartucciere, coni di legno, cazzuole, guarnizioni da cesso, damaschi, rotule, rotelle e ilosfere. Fiumi. I fiumi maschi possono anche mormorare, come fece il Piave per bloccare marocchini e crucchi privi di cartolarizzazione identitaria. Il fiume femmina non mormora, è orgiastico, soggetto a climax ripetuti, con conseguenti ridondanti esondazioni. Alluvioni. In questi ultimi anni, la Moldava, l'Elba, la Vistola, la Marna, tutte esondarono, e altri fiumi ancora, mettendo in pericolo degenti, penitenti e studenti in varie città, da Praga a Dresda, a Vienna, a Dessau, a Innsbruck, a Strasburgo, piena com'è di canali e di funzionari e parlamentari strapagati della nostra bella Europa. Progresso. L'Europa, multietnica e plurilingue, si fa vessillifera di un progresso che è sempre più di tipo fluviale. Il turbamento delle stagioni, l'avanzare della desertificazione, l'arretrare dei ghiacciai o, per converso, lo straripare dei fiumi femmina, tutto questo a causa dell'indiscriminato spreco che inquina e oltraggia la natura ferendola e bucandola, deve pur essere costretto, dopo Kyoto e Johannesburg, a rifluire entro canali e condotti e canne, sino alle conturbanti tubazioni portatrici di liquidi libidinosi di cui ho dotato queste mie ultime donne raccattate sulle sponde del divenire d'una memoria. Collage. Colui che dipinge o incolla frammenti di coccio, di specchio o di cucito vorrebbe costruire una diga contro l'eterno fluire universale. Opera impossibile di fronte al continuo scaturire di rigagnoli, gocciolature e infiltrazioni che, come da tubi e giunti sconnessi, lentamente e poi vorticosamente affiorano da crepe e sorgenti per confluire assieme in corsi d'acqua, torrenti e fiumi. Ogni sbarramento, argine o diga risulta superfluo, come i recenti allagamenti dimostrano. La donna partorisce acqua viva. Da Enrico Bai, Idraulica, Schira Gio Marconi, Milano 2002.